e probabilmente dovrebbe essere a livello estremamente paranoico per realtà come Hacking Team, dove il nemico che si trova a fronteggiare è palesemente un nemico estremamente competente. Senti, c'è naturalmente un dibattito, che è uno dei dibattiti in atto, sul è lecito fino a che punto vendere questo tipo di tecnologia a paesi che sono, diciamo, diversamente democratici, dove ci sono dittature, e questo è un dibattito che lasciamo soprattutto a chi si occupa di diritti digitali su internet. Ma ti faccio una domanda relativa al mercato grigio nero che esiste di queste tecnologie. Se io ho molto denaro da investire, difficilmente potrò comprare delle armi, e parlo di armi fisiche, di un certo valore, molto complesse, molto potenti, molto pericolose, perché c'è sostanzialmente un controllo e queste armi le possono usare solo gli stati, solo i militari. Ecco, in questo caso è molto più difficile tenere sotto controllo software di questo genere, che può essere paragonato ad un'arma, rispetto ad un carro armato, ad un missile, ad una bomba nucleare. Se io ho un sacco di soldi posso comprare questo tipo di tecnologia, magari non da società di paesi dove c'è comunque una sorta di controllo istituzionale. Beh, in realtà io già adesso sono in grado di comprare armi digitali, perché se ci pensiamo bene, e ne hai parlato anche tu in altre trasmissioni, in realtà tutto il mercato dei virus, dei Trojan che noi troviamo in giro per la rete, che ci infettano il computer, i ransomware che ci criptano il computer, anche quelli sono prodotti da un ristretto manipolo di realtà che quasi solo producono e poi vengono venduti al miglior offerente. Anche in questo caso sì, è impossibile evitarlo. In realtà, anche nella realtà, io posso comprare armi da fuoco, posso comprare anche armi da fuoco di grosso calibro. C'è questa, diciamo, difficoltà intrinseca reale nel trovare chi sta usando questo tipo di tecnologie, ma anche perché, se ci pensiamo, mentre è attivo a livello internazionale tutta una rete di controllo per il commercio di armi, di controllo reale sulle rotte di commercio, di analisi, di investigazioni, ciò non è vero per adesso nel mondo delle cosiddette armi digitali o dual use. In questo caso non esiste nemmeno proprio il controllo attivo, che normalmente viene demandato, per quanto assurdo possa sembrare, a delle organizzazioni private o delle organizzazioni no profit. Meravigliosa l'analisi di Citizen Lab, questo collettivo universitario che ha fatto un'analisi su alcuni campioni dei virus di Hacking Team, mostrando come nella realtà esistevano dei server attivi che usavano questo tipo di intercettazione in paesi considerati internazionalmente canaglie. Sì. Senti, tu prima hai accennato alle possibilità che molti siano in pericolo perché questo software ormai è diffuso e quindi uno potrebbe prenderselo e usarlo contro. Cioè, quindi domattina uno potrebbe fare un software e infettare il mio smartphone e intercettare tutto quello che faccio sul mio smartphone? Questo indipendentemente da Hacking Team. Sono centinaia i software che posso già oggi comprare in modalità lecita, non lecita, di controllo remoto, di spia per antifurto, passati in vario modo. Qui siamo a un livello di sofisticazione. Però questo è particolarmente sofisticato. Questo è particolarmente sofisticato, e diciamo che mentre rende meno appetibile un software come RCS da parte dell'utente normale, l'utente che vuole investigare su una presunta infedeltà coniugale, lo rende però molto più appetibile a realtà strutturate internazionali o di grande criminalità, che possono contare su un ottimo sistema di gestione, di catalogazione, di ricerca, di approvvigionamento di migliaia di bersagli contemporanei. Una domanda sul futuro, prossimo futuro, di un'azienda come Hacking Team. Secondo te la reputazione è completamente andata in fumo, o, essendo comunque anche una società importante per il sistema di indagine in Italia, tu pensi che ci possa essere un futuro? Beh, fammi indovino e ti farò re. In realtà non si sa. Se dobbiamo controllare, la reputazione è sinceramente compromessa. Ci sono delle problematiche pratiche. Allora, uno, dovremmo vedere cosa è successo a chi ha già subito danni di questo tipo, perché ricordiamoci che non è la prima realtà che fa questo tipo di lavoro che viene bucata. e a cui vengono sottratti i contenuti. È già successo a Gamma, uno dei loro competitor, con FinFisher il prodotto, che è similare per funzionalità, e Gamma è ancora in piedi. Ha perso il mercato domestico, cioè ha perso la sua nazione, ha perso probabilmente quote di mercato, ma alcune realtà spesso sono troppo grandi per fallire, too big to fail. E in questo caso ci troviamo anche in delle problematiche non facili da gestire. Se no, una delle domande che dovremmo farci è: se non loro, chi? Cioè, chi è l'altra? Quali altre realtà esistono che possono supportare, ad esempio, non le forze dell'ordine, ma magari i servizi segreti italiani? Ci possiamo fidare di dare in mano le intercettazioni a un'altra realtà territorialmente diversa dalla nostra, soggetta tra l'altro ad altri servizi? Possiamo? Forse sì, forse no. Il controllo che può esercitare una realtà italiana su una società italiana è probabilmente più vasto di quello che può esercitare al di fuori di. Questo però non diciamo che è il minore dei mali. Di sicuro ci sono tutta una serie di voci che, se adesso verranno confermate, soprattutto per problematiche legate a paesi diversamente democratici, devono assolutamente essere prese in considerazione in modo estremamente serio. Chiudiamo così questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione. Questa è la nostra prima puntata nella versione estiva, che è un po' più breve rispetto a quella classica di un'ora del venerdì sera. In questa occasione, durante l'estate, andiamo in onda solo la domenica alle 13.05 e in replica alle 23.30. Grazie a tutti come sempre, ma come alcuni ascoltatori ci hanno fatto notare, per fortuna esiste il podcast, quindi a qualsiasi ora andiamo in onda, che sia più breve, più lunga, eccetera eccetera, poco importa anche il palinsesto e le lunghezze, perché come sapete nella versione podcast, laddove è possibile, laddove siano interessanti, mettiamo tutte le nostre interviste in versione integrale. Infatti la chiacchierata che abbiamo fatto con Matteo Flora è in versione integrale. Ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano dall'estero, dalle parti più disparate del globo terrestre, visto che Marco Baccanti mi ha scritto su Twitter e giustamente mi ha tirato le orecchie. Marco Baccanti è il capo di Health Industries in Australia, ad Adelaide, è un'organizzazione del governo del Sud Australia che si occupa dello sviluppo di partnership con aziende del settore delle scienze della vita, Life Sciences. Leggo dal blog Nova 100 sul Sole 24 Ore, quindi dovrei aver detto bene. Quindi saluto anche Marco Baccanti che ha scritto, e saluto tutte le altre persone che ci ascoltano dall'estero e che magari hanno più difficoltà anche per il fuso orario ad ascoltare la radio normalmente, che esiste anche in streaming in tutto il mondo, però chiaramente è un po' più complicato. E naturalmente salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori in Italia. Torniamo la prossima settimana. La prossima settimana dovremo parlare, se anche le cronache lo permettono, perché questa settimana ci siamo concentrati molto su Hacking Team, e dovremo parlare anche del mercato di smartphone e wearable devices. Appuntamento tra 7 giorni. 2024.